tappa mia e se vado mi prendo un paio di pizze. Tanto non ne ho voglia di mangiare. Ah, non ne voglia già? Oh, di cenare no, due pizze mi mangio, due pizze. Ok, no, noi facciamo pranzo e cena tutto in uno. Quindi si sta già preparando a rispetti il baldanzone. Si può fare una bella cena? No, oggi facciamo tutto in uno noi perché c'era una situazione particolare, dai. Mamma non se la sentiva, io nemmeno, qui siamo usciti presto per godere del sole, quindi. Vabbè, dai. Se non esisti più bisogno, già va bene. Eia. Oh, io non ho problemi a saltare il pranzo alle volte. Dipende, a giornate. No, io sì. Io devo fare i pasti programmati. Poi tu devi essere in forza per fare anche quel lavoro, capito? Beh, naturalmente. Nel lavoro ti fa bruciare un po' di energie. Mangiati gli spinaci come braccio di ferro. E già li mangio ogni tanto, Non li mangi mai, quelli con formaggio. Sì, a me piacciono gli spinaci. Se li fai con l'uovo, col formaggio, boh. È presente con l'uovo, tipo frittata, dai, no, non tipo, frittata, con gli spinaci. No, li vedo quelli singoli, già con i pezzi del formaggio, se tu lo fai ovviamente sulla padella, si sciolgono, li mangi così. Ah, quello che si chiama fila, aspetta com'era? File fondi, boh, no, non è quello. Ma cosa, file fondi c'è le sottilette. Ho la 5, ho la 5, ho la 5, c'è nessun altro? Chiamavo qualcuno ma non c'è nessuno. Eccomi qua da Bricoman. Da parte mia, via Grazia Deledda. Bella forte, bella forte. E Marco, mi sta sudando che rientri tu, poi vado a pigliarmi le pizze. Ah, oggi pizza, ogni tanto ci vuole. C'è un amico che me la porta certe domeniche, però siccome sono troppo condite, mi stavo anche stancando di pizza già. Ah, ma io me le prendo al taglio, pizzetta al taglio, mi. Io pizzetta al taglio così. Ben condite, sì, ma al taglio. Ah beh, al taglio sì. Io mi sono trovato bene da Graziano e al latte dolce, di fronte alla numero 10 mi sembra. Le prendevo le pizzette che erano belle con mozzarella e pomodoro, abbastanza piene, con le patate fritte. Farcite, no, io la mangio normale e in via di Sardegna sono buonissime, sono croccanti proprio, molto buone. Con molto formaggio, soprattutto molta mozzarella, gli faccio mettere un po' di riga e basta, tutto lì. E come si chiama il negozio? Podige, quello che c'è su, no, quello di giù è Oggiano, quello che c'è più su, deve essere un altro. Ha giù un preso, passando, porca miseria, A fianco a c'è pesca, Marco. Ho capito, là. No, qua ci sono i soliti che passano, escono dagli stop, capito? Stasera lo furgone a Porto Torres, questi bambini erano 4 bambini, tutti sui, penso, 12 anni, 13 anni. Hanno attraversato, se sta guardando, ho dovuto frenare il capo, se li bisogna fare lo stretto. Peggio per loro, se non stanno attenti. Non deve essere il corpo, l'ho visto. Deve essere a guardare. Scusa, mi ha fatto la mano, scusa. Sono tonti, sono come le bestie, capito? Non capiscono che la macchina non si può fermare all'istante. Sono male, già ancora un po' di riflessi mi sono rimasti. Ehi, fate la guida, ci vogliono riflessi, mamma mia. Pensa quando saremo vecchi che ci ritireranno la patente. A mio suocero per evitare quello, arriva a casa a tentare e basta. oramai quando uno è anziano non ha più le facoltà per guidare, quindi gli ritorno la patente e basta, non è voluto sapere, mi prendo la macchina e via. Ecco, quella è una decisione molto coscienziosa. Invece ti ricordi quello incontinente, quello di 85 anni, che stava guidando un enorme SUV ed è entrato in un negozio e ha ammazzato due persone? Cazzarola. Vabbè, mi succede, è un po' inquadrato perché era ispettore di polizia, quindi ne ha viste tutti i colori e quindi sa, capisce uno quando deve tenere la patente o no. Certo, non mi sento più con i riflessi di una volta e quindi meglio che per evitare di causare danni agli altri, a me la verso la patente e buonanotte. Break, Paolo Moser. Registrato. Invece questo vecchio, sai cosa ha fatto? Come era in prossimità del negozio, anziché frenare, ha accelerato e c'è entrato dentro, capito? Ha ammazzato due persone. Avanti Paolo Monster. Ciao a tutti. Buonasera. Buonasera a voi. Volevi parlare con Paolo Monster. Ben sentito, aspetta che dopo il bip parla, che stavi parlando sopra Gianni. Buonasera, ben entrato, sei nuovo? Sì, sono nuovo, di latte dolce sono. Arrivi molto bene, voce chiara, limpida e benissimo. Mi sono più rum, avanti Gianni. Buonasera, mi sento per la prima volta. Corretta, avanti. Capo, avanti l'amico. La faccia è un po' di microfono. Ti saluto anch'io, però non riesco a sentirvi tanto bene adesso. Ti deve organizzare, capo. Comunque, se stai ascoltando, io sono Marco Condor in Baramobile, di rientro a casa. Molto piacere, Marco Condor. Ok, l'hai ascoltato Gianni? Ehi, l'ascolto, dai. Paolo Moser, che apparecchio stai usando? Forse non si sente. Attenzione Paolo, Gianni ti sta chiamando, non lo senti? Allora, sto utilizzando un Alan 48. Allora, esce molto bene. Bene, bene. Ma non sei di Sassari? No, non sono di Sassari. Vengo da fuori, però vivo a Sassari. No, perché dall'accento mi sono reso conto che è incontinentale, dai. Esatto. Vabbè, ci fa piacere che abbia fatto questa scelta, ma tu modulavi già da quando abitavi in continente oppure hai deciso qua di poter apparare? No, niente, ho riesumato la vecchia radio di mio padre che faceva il camionista e quindi adesso la sto provando, la sto testando un pochettino. Mi sei sicuro che abita latte dolce? Certo che abita latte dolce. Ma complimenti, 9:40, a 10 km da te, ciao, buonasera a tutti, non abbiamo scoperto. Buonasera. Ciao, piacere, chi sei? Sono Giovanni, mi chiamo Giovanni. Molto piacere, Paolo Monster. Ok, ciao, ben sentito per la prima volta, Giovanni da Sassari. Buonasera a tutti, rimango in ascolto. Comunque sì, 9:40, nella zona di Carbonate. Ciao. Finalmente una modulazione continentale in mezzo a tante voci da terroni. Non siete terroni, io ho una grande stima per i sardi, non li considero terroni. No, io sono sardo e li considero molto male i sardi, poi ti spiegherò perché. Chi era tuo padre? Che tu segnala la famosa? Mio padre è un camionista che è praticamente di continente, che giri la trottola. Scusa Marco, un secondo, chi era tuo padre o chi è tuo padre? Gigi la trottola come CB. E cioè l'antenna alla veloce tu? Certo. In che zona te lo posso chiedere, più o meno orientativo? E chiedendo informazioni. Vi famiglia Pisani Ossi. Va bene, dai. Ciao, una buona serata. Mi prendi mano. Una buona serata anche a te. K, Paramobile, buonasera Giovanni. Sì, stavamo ascoltando una nuova modulazione finalmente. Una luce nell'oscurità. Per me non è la croce. Ok. Che se ne è la croce sono due, non ce ne sono altre, sono tutte due 9 più 20. Perdonami Giovanni, ma so, io dopo 40 anni in radio ti sto ascoltando, comunque complimenti. Sicuramente c'è qua nella mia zona di fronte a me. Scusate qua, scusate un attimo, che qua c'è per parcheggiare, sta andando ai 10 orari a cercare parcheggio. Giusto. Ma mai una cosa incredibile, sembra che ci siano solo loro sulla strada. Adesso mi attacco dietro, non faccio nemmeno parcheggiare se c'è posto. Dove sei, vicino a casa? Sono a Viale Trento, dove c'è il moderno, il cinema moderno. Berto. Ma Umberto. Cappava. Vabbè, dai, io scendo, mi prendo il P7, vi auguro una buona continuazione. Poi riaccendo, va, se sono pronto faccio il freddo. Ok Gianni, buona mangiata di pizzette, noi ci mangiamo cannelloni, ricotta e spinaci, la mia passione. Kappa. Saluto anche l'amico Paolo, vai, e magari ci sentiamo fra una decina di minuti, sono andato nelle due pizzette e poi magari vieni. Ciao Gianni, a dopo. Ciao Kappa. Marco, rientri a casa? Oh, vediamo, dipende, adesso ne mangiamo, fino a mezzanotte mangiamo, credo, forse abbiamo ospiti, non lo so. Ah, cosa che tira le lunghe allora, eh? Vabbè, io provo a riaccendere se c'è qualcuno. Ciao, salutami anche da quello che l'ho. Ciao, saluto, già. Ciao. Ciao, Liu, ci sentiamo, dai. Fallo mangiare poco a Marco, che c'ha delle buche e delle sioni stasera. Scusate che è successo un casino col cavo, eh? Vabbè, da quelle ti per me, tanto non c'è nessun altro, ciao a tutti.